Thank you. veste questa sera le vostre preci. Se mi sovviene di qualche colpa commessa, che attenda grazia dal ciel in propria posta. Che? Affretta, uccidere l'Ambania, l'anima tua. Oh! qui, sposa, ti baciai.